oltre la crisi. Parliamone. In studio il professor Francesco Campione. Buongiorno, buongiorno, mercoledì, oltre la crisi comincia qui e fa anche rima, va? Saluto Willy in regia. Buongiorno. E saluto Francesco qui di fianco a me. Buondì. Allora, oggi parliamo di... Invidia. Invidia. Abbiamo deciso che parliamo di invidia. Qui. Oh, voglio vedere se non partecipano oggi i nostri ascoltatori, se non ha mai provato un pizzico di invidia per qualsiasi cosa o per qualsiasi qualcuno. Se sono sinceri, partecipano. Eh sì, anche solo via SMS. Ricordiamo subito i contatti, così SMS, WhatsApp 333 180 94 94, 051 34 64 58 per partecipare in diretta oltre la crisi. Stavo notando con piacere che per i numeri è stato messo un cartello super figo. Hai visto? Eh beh, quello di prima era un po' datato. Non si leggeva più. Era un po' più datato, niente. Non si leggeva più niente. Poi di solito è scritto a mano, storto. Sì. Invece no, tutto fatto per bene, sembra quasi una cosa seria. Vabbè. Che invidia. Che esatto. Che invidia. Perché ha una bella calligrafia. Esatto. Questa è una radio serie. Certo. No, una radio serie invece. Bene, quindi vi abbiamo dato i nostri contatti, vogliamo sapere tutti i vostri casi di invidia provata, ricevuta. Potete farcelo a voce, potete farcelo via SMS e WhatsApp. E cominciamo a parlare di questo che è un... si può definire un sentimento? Sì, un sentimento. Sì, un sentimento, un sentimentaccio. Un sentimentaccio. Un sentimentaccio. Allora, che cos'è l'invidia? Esatto, perché ti spiego. Ci sono... delle anche derive di pensiero sull'invidia, del, diciamo, delle generalizzazioni, cioè, quindi partiamo dalla definizione. No, dunque, fai il tre cani della situazione. Allora, il quattro cani della situazione. Allora, c'è un modo inequivocabile per definire l'invidia, e poi ci sono, come tutti i termini al mondo della nostra produzione linguistica, anche il termine invidia ha svariati usi che spesso colgono le sfumature, la ricchezza del termine e anche certe trasformazioni che il significato nella vita quotidiana subisce. Che significa invidia? Che cos'è l'invidia? L'invidia è il sentimento di dispiacere per il bene altrui. Cioè, esattamente il contrario di quello che abbiamo sempre predicato, visto che ti prendi del prete regolarmente in questa trasmissione. Sì, esattamente il contrario. Io ho sempre predicato che il dispiacere dovrebbe essere il dispiacere per il dispiacere altrui. No, l'invidia è il sentimento di dispiacere per il piacere, per il bene, per la felicità, per la bontà, per l'intelligenza, per la ricchezza, per la bellezza, altrui. Altrui. E il termine invidia deriva dal latino in, che vuol dire non, è negativo o avversativa, non o contro, videre, vedere. Non posso vedere. Non posso. Tu sei bellissima, non posso vederlo. Cioè, sì, è, non lo posso accettare. Invedibile, è invedibile. Appena lo vedo, sto male. Se vedo che tu stai bene, io sto male. Per esempio. Vai, per esempio. Per esempio, tutta una serie di atteggiamenti che hanno a che fare con l'ostilità nei confronti della gioia altrui sono legati all'invidia. Per esempio, il malocchio è legato all'invidia. Il sadismo è una conseguenza dell'invidia. Adesso approfondiamo. Intanto Andrea immancabile ci benvenuto scrive. Andrea, mi sono augurato tanti messaggi da parte tua, quindi non deludermi, mi raccomando. Io metterò musica che... bellissima, tu scrivi. Aspetta, Andrea non ci delude mai e lo certo. Sai. Intanto dice buongiorno. Invidia per il grande Willy. No, beh, perché? Aspetta, che musica. che stai mettendo ultimamente. Grazie. Perché sta vicino alla Splendida Plus. Esatto, è unicamente merito delle ispirazioni che la mia musa Plus mi manda. Quindi grazie Francesca e grazie Andrea. Sono diventato una musa adesso. Ero un muso, sono diventato una musa. Un gran bel muso. Un gran bel muso. Dicevamo. Tra l'altro, scusa, apro e chiudo una parentesi, il Amici di Rivivere nei suoi incontri del lunedì che sta portando avanti, di cui abbiamo parlato varie volte, lunedì scorso ha trattato esattamente questo tema, quindi dopo io ti interrogherò su che cosa anche è uscito dalle sollecitazioni alle persone che hanno partecipato a questo certo, incontro. Certo, perché è stato molto interessante. Immagino. E poi se non riusciamo a esaurirla oggi, la continuiamo anche la prossima volta, non c'è problema, però intanto dicevamo, adesso la chiudo questa parentesi, ci torniamo dopo. Dicevamo, il sadismo è una conseguenza dell'invidia. Sì, una delle conseguenze dell'invidia è il sadismo. Cioè quando tu non puoi vedere una cosa buona che ha un altro e ti sorge in te un sentimento di rabbia per quello che l'altro ha o è e che tu non sopporti, perché non, soprattutto perché non ce l'hai tu, e allora ti viene in mente che vuoi distruggere quello che l'altro ha o l'altro è. Perché? Perché così, distruggendo, facendogli del male, tu trasformi il tuo dispiacere per il suo bene nel tuo piacere per il suo male. Che è il sadismo. Ho capito. Però il sadismo è anche a sé stante, o sbaglio? Cioè, non sempre proviene dal... Per quello che mi sono concentrata soprattutto... Non è a sé stante. No, Non è a sé stante. Il sadismo deriva dall'invidia, no? Senza l'invidia non ci sarebbe sadismo. Se tu non hai il dispiacere per il piacere dell'altro, ma c'hai piacere per il piacere dell'altro, non ti viene in mente di rovinargli il giochetto. Certo. Di. Adesso ti faccio una domanda buonista, così mi prendo dalla suora Andrea, non se ne parla più. Ma a che serve provare invidia? Che senso ha provare invidia? Perché oltretutto, oltre vabbè, al desiderio della distruzione del bene dell'altro, no, ma questa è una c'è delle anche conseguenze. Una sorta di consumazione di se stessi in questo sentimento. Sì, no, c'è. Il sentimento è un sentimento negativo, cioè non è che è un godere, un aver piacere, è un soffrire. Il sentimento dell'invidia è un sentimento di sofferenza, è un sentimento di dispiacere comunque, che può essere tristezza, può essere rabbia, può essere frustrazione, però è un sentimento negativo, non è certamente un sentimento. Quindi l'invidia... Però alle volte, no, la mia domanda era questa, non mi sono... cerco di, perché delle volte anche i sentimenti negativi hanno una loro utilità, a prescindere se sono positivi o negativi, appunto. Dopodiché possiamo decidere socialmente o a livello di comunità di decidere che quello è un sentimento positivo e quello è negativo, però hanno una loro utilità, anche quelli negativi. Sì, la sì, rabbia, faccio per dire, certo, ha certo un'utilità di sfogare. Ma l'invidia io non riesco a capirne l'utilità. Per chi la prova, intendo. Perché è solo struggimento. No, perché? No. Perché dipende dalle reazioni. Per esempio, tu invidi qualcuno e vuoi diventare come lui, lo imiti e attraverso questa imitazione diventi migliore. Una delle, come dire, delle caratteristiche positive dell'invidia è che ti può anche migliorare l'invidia, no? Cioè una delle reazioni all'invidia è voler avere quello che l'altro ha, voler essere quello che l'altro ha e così migliorarsi. Cioè questo però è più ammirazione che invidia. No, questo è, come dire, è una delle forme dell'invidia buona, perché c'è l'invidia buona e c'è l'invidia cattiva. Cioè c'è l'invidia che produce qualcosa di buono e c'è l'invidia che produce qualcosa di cattivo. C'è l'invidia costruttiva e l'invidia distruttiva. Ho Ok, e allora a questo punto io lascerei questo sospeso in modo da scatenare un po' i nostri ascoltatori e le nostre ascoltatrici sull'invidia buona, sull'invidia cattiva, su quando l'hanno provata, su com'è andata, su come non è andata, eccetera. E andiamo con la musica? Vai, se no a che servi tu? Hai ragione, Clara Hill, remixata dagli At Jazz, qualcosa di più attuale oggi. Buon ascolto. And oltre la crisi si sta andando su discorsi classici, epici, si parla di deità e divinità che già da allora descrivevano e soffrivano di invidia. Esatto, e proprio di questo volevo parlare, perché parlavamo di sentimento molto umano, l'invidia appunto, e mi viene da pensare che la cultura greca, anche quella romana, però soprattutto quella greca legata agli dei dell'Olimpo, ai semidei e tutte queste robe qua, è molto piena, colma di questo sentimento, tanto è vero che molte delle vicissitudini o delle disavventure o avventure degli uomini nelle storie legate alla cultura greca sono la conseguenza di atti di invidia da parte degli dei verso l'umano, e quindi lo trasforma in un modo oppure gli fa fare una vita in un'altra maniera. Certo. Quindi è una cosa che viene anche da lontano. Sì, sì, sì, ma infatti il sentimento dell'invidia è un sentimento universale, imperituro, c'è da sempre, no? No, direi che il... tu hai ragione, c'è questa... nel rapporto fra chi è superiore e chi è inferiore, chi è più potente e chi è più impotente, c'è sempre una sfumatura più o meno grande di invidia. Quindi nel rapporto tra uomini e dei c'è sempre una sfumatura di invidia, però nella cultura greca c'è un aspetto che riguarda l'invidia. C'è una divinità che è, come dire, nella sua essenza invidiosa, ed è Venere. Ed è Venere. Che dovrebbe essere quella invidiata, tra l'altro. Sì, però attenzione, dove si esprime, in quale zona del mito? È il mito di amore e psiche. Apuleio, no? Nell'Asino d'Oro, ha raccontato questo mito. Cioè, in realtà, tutto nasce con l'invidia di Venere per Psiche, che era una donna, e nasce nel mondo una donna più bella di Venere. Aiuto. Venere ha un colpo di invidia e che fa? Manda suo figlio Cupido, Eros, sulla terra per far innamorare Psiche e perderla e portarla alla perdizione e rovinarla, no? In realtà il figlio si innamora veramente di Psiche e ne segue tutta una storia che non stiamo qui a raccontare, molto avventurosa, molto, molto interessante, e alla fine la dea deve venire a patti con il fatto che c'è un'altra più bella di lei. Però in realtà il sentimento dell'invidia protagonista, la divinità protagonista del sentimento dell'invidia è Venere. Se volessimo fare un esercizio psicoanalitico, così eccetera, e pensare a Venere come a un simbolo, potremmo dire che l'invidia in qualche modo è in agguato tutte le volte che qualcuno, per esempio una bella donna, si confronta con un'altra bella donna e constata che c'è qualcuno più bella di lei. Quindi da questo possiamo trarre qualche spunto di riflessione per rispondere alla domanda: da dove viene l'invidia? Ecco, questa perché? È una domanda, stava per arrivare, adesso io devo fare le domande, se tu mi freghi pure le domande io a che servo? No, io ti ispiro le domande. Vieni di qua con me a mettere la musica. Ti suggerisco le domande, adesso tu hai avuto un colpo di invidia. No. Sì? No. Io è un sentimento proprio che non mi tange questo, però vabbè. Vabbè, adesso stiamo scherzando. Quindi da dove deriva l'invidia? Suona il telefono. Sì, ma ci vogliono vendere qualcosa. Ho capito, allora riattacca. Immergilo, esatto, in un secchio di cemento, così non suona più. Mettilo in diretta, mettilo in diretta altrimenti. Fallo tacere, spaccalo, togli la batteria. Va bene. scusami, da dove arriva l'invidia? Da dove arriva? Nasce? Cioè, come nasce l'invidia? Nasce dal confronto con l'altro. Nasce dal confronto con l'altro. Cioè, nasce dalla quella particolare misura che si trae dal vedere l'altro e paragonarlo a sé. Cioè, dal giudicare in fondo l'altro sulla base di quello che fa sentire a noi. Quando tu lo vedi, dici, l'ho visto, ho visto, e cosa mi ha suscitato? Al confronto con l'altro, cosa ho pensato? Ho pensato che è più bello lui. Ho pensato che è meglio lui. Ho pensato, e cosa ho sentito dentro di me? Ho sentito un dispiacere. Cioè, quando ti confronti con l'altro e il confronto ti diminuisce, tu senti un dispiacere. Sì, oppure lo stimolo a crescere. No, però prima ti diminuisce. E nel diminuirti ti fa sentire un dispiacere. Quello che dici tu è un modo di reagire a quel dispiacere. Come reagisci a quel dispiacere? Cioè, c'è un altro più bello di me, più intelligente di me. Io cosa faccio? Posso fare tante cose. Posso cercare di diventare come lui. Posso cercare... Se per esempio penso che non sia possibile, no? Allora... Che faccio? Allora mi arrabbio, allora ho un senso di ingiustizia, allora posso pensare di distruggerlo. Sì, però voglio dire, è pieno il mondo di gente meglio di noi, di certo. Meglio di ognuno di noi. Sì, però perché certe volte il confronto non determina un dispiacere anche quando l'altro ti dice che tu sei peggio di lui? Cioè, perché? Perché? Sempre provoca un dispiacere? In tutti provoca un dispiacere. Sì, provoca un dispiacere in tutti, ma c'è una differenza. L'invidia buona, per esempio, è l'invidia di chi distingue tra il dispiacere inevitabile per il sentirsi inferiore a un altro, quello è inevitabile, ma quel dispiacere è un dispiacere per sé, non è un dispiacere per quello che l'altro è. Cioè, tu puoi distinguere fra ti dispiace per te di non essere così bella come un'altra, ma non ti dispiace per lei che sia più bella di te. Allora, ci scrive Gino e dice: Gino. Buongiorno Gino. Che tra l'altro riprende anche una notizia che prima vedevamo fuori onda. Berlusconi dice che ce l'hanno con lui perché invidiano la sua posizione. Con questa invidia si può migliorare? Chiede Gino. Sì, ci sono tantissimi seguaci di Berlusconi che lo imitano. E aspetta. E se sono peggio di lui, potrebbero anche migliorare. Scusate, non è che per forza il Berlusconi è il peggio del peggio. Guardate che ci sono tanti che sono molto peggio di lui, E si stimano di questo, No, si stimano, sì, se ne accorgono. Al confronto con Berlusconi se ne possono accorgere. Cioè, per esempio, ci sono tante persone che hanno molto meno potere, che hanno molto meno possibilità. Rispetto a questo si possono sentire, appunto, diversi, inferiori rispetto a Berlusconi, e possono cercare di diventare come lui. E possono migliorare in questo, no? Diventano più bravi negli affari, diventano più... No? Migliorano. Perché no? Se sono peggiori di lui, possono anche migliorare. Ci sono poi quelli, dall'altra parte, questi sono quelli che sono a favore. Poi ci sono quelli che sono contro. Quelli che sono contro, invece, farebbero di tutto, ed è quello che Berlusconi sente, l'ostilità, farebbero di tutto per togliergli i soldi che ha, il potere che ha, perché è ingiusto che ce l'abbia, perché se l'è guadagnato a sproposito. Ma invidia quella? Sì, può essere che ci sia invidia. Desiderio di liberarsi di un fastidio? Sì, per esempio, però nel senso di giustizia, c'è sempre un pizzico di invidia. Questa me la spieghi meglio. Sì. Mm. Nel senso di giustizia c'è sempre un pizzico di invidia. Per esempio, il vero senso di giustizia, se non ci fosse un pizzico di invidia, cioè un pizzico di dispiacere, ecco, per esempio, tu denunci un evasore fiscale, no? D'accordo? Mm. In molte denunce di evasori fiscali c'è il senso di rivalsa per chi pensa lui sì e io perché no. Ah, ok. E quindi anche questo lo possiamo classificare. Sì, è giusto, però in ogni giustizia, perché la giustizia spesso deriva dal dispiacere, in parte naturalmente, perché poi c'è, perché sempre si basa sul confronto, però tu nel confronto riesci ad essere giusto? Oh, qui suona. Qui sta suonando anche la parrocchia di Santa Rita. Allora, un attimo solo, andiamo in pubblicità. In pubblicità e poi recuperiamo i messaggi che stanno arrivando. Intanto, anche grazie. La telefonata, non so. Ah, beh, di tutto ormai. Di tutto. Allora, suona intanto tutto, facciamo gli auguri. Che invidia! Anche se in per questa radio. Sì, accidenti. Intanto facciamo gli auguri, dicevo, anche se in un'altra dimensione. Sapete che io sono maniaco dei compleanni delle grandi artiste, a Dusty Springfield, e proponiamo questo Take Another Piece of My Heart, Dusty Springfield. E poi andiamo in pubblicità. Prendi un altro pezzo. And beautiful, I'm so blessed. Yeah, yes. My mama's on my right side, daddy on my left. My son, father doing is absolute. I'm so blessed, blessed, blessed, blessed. Yeah, yeah. E allora anche Manuela ringrazia Willy per la musica. Grazie. E io sto morendo di invidia. Chissà, dai, ti do i CD, te li cedo. Tutti complimenti. Grazie, uffa. Manuela, grazie. Ecco, e ti risponde Gino, cioè mi interveniva, diciamo, nella conversazione mentre tu parlavi del sentimento di giustizia, del denunciare l'evasore, eccetera, eccetera. E, cioè eludere il fisco senza farsi beccare, che sarebbe. Certo, il... che le quello che tutti invidiano. Esattamente. Che tanti invidiano. Dice, com'è che non ci riesco io a farlo? Non è tanto, non è giusto evadere, ma quanto. Va bene. E Manu ci scrive, rimanendo in tema, siamo sicuri che le vittime non invidino i carnefici, tanto per rimanere in tema di giustizia in senso lato? Beh sì, può succedere. Sì, sì, sì, sì. Le vittime, spesso la vittima vuol, come dire, il desiderio più profondo della vittima è di mettersi al posto del carnefice. Ed è la ragione per cui spesso tra la vittima e il carnefice si stabilisce una relazione ambivalente. Cioè che tu... Prima parlavi di sadismo, allora il sadomasochismo... Nel sadomasochismo c'è molta ambivalenza. E qui però appunto siamo già in una zona oltre l'invidia, alle conseguenze dell'invidia, no? Oltre l'invidia potrebbe essere il titolo della trasmissione dell'anno prossimo, dopo Oltre la crisi, potremmo pensarla così. Ma come si va oltre l'invidia, Francesco? Perché a proposito... Ecco, ma prima di arrivare a quello, secondo me c'è una domanda precedente, e cioè quali sono... Fatela pure, cioè, fatti una domanda e date una risposta. No, cioè, no, ma perché è così? Perché se saltiamo questo passaggio e andiamo subito andiamo alle conclusioni. Prima, no, io non voglio andare alle conclusioni. Prima, secondo me, prima, anche perché non è che le conclusioni sono così brillanti, bisogna affrontare altri due problemi, e cioè quante forme di invidia esistono. Ah, perché non ce n'è solo una. No. Ah, vedi, che non sono preparata. Quante forme di invidia esistono e quante forme, quanti modi di reazione, di reagire all'invidia esistono. Cioè, allora, abbiamo detto che l'invidia è un sentimento, il sentimento di dispiacere per il bene altrui. Ma che sentimento? Non è che è sempre lo stesso sentimento. Una volta è la tristezza, San Tommaso diceva l'invidia è la tristezza per il bene altrui. Ti diventi triste quando vedi che un altro sta bene e tu no. Può essere un sentimento di rabbia, che poi può essere anche un sentimento di giustizia, no? Può essere una profonda frustrazione, può essere un sentimento di impotenza, di inadeguatezza. Quindi ci sono varie forme di invidia. Ah, però. Ci sono varie forme di invidia. E ci sono diverse reazioni all'invidia. Per esempio, appunto, ci può essere all'invidia una reazione di imitazione, una reazione imitativa, no? Oppure ci può essere una reazione distruttiva, che è quando l'invidia, appunto, dicevamo, si trasforma in sadismo, no? Poi ci sono c'è un'altra distinzione. Non c'è solo la distinzione tra un'invidia e l'altra in base a quale sentimento di dispiacere, ma anche appunto in base alla domanda se produce del bene o se produce del male. L'invidia buona è quella che produce del bene, l'invidia cattiva è quella che produce del male, cioè che si trasforma in una specie di sadismo. L'invidia buona è l'invidia di chi, lo ripeto, sa distinguere tra l'inevitabile dispiacere per il bene altrui, che ti fa sentire se un altro è potente tu ti senti impotente, se un altro è ricco tu ti senti povero, nel confronto con uno bello tu ti senti più brutto, nel confronto con uno fortunato tu ti senti sfortunato, nel confronto con uno più buono tu ti senti più cattivo o meno buono. Questo è inevitabile, ma non è detto che sia un'invidia cattiva, cioè può essere un'invidia buona, cioè può essere che tu a te ti dispiace per te che sei meno buono di quell'altro o meno ricco di quell'altro, ma non ti dispiace per lui ti fa piacere. Cioè, come quando si dice, io mi ho piacere per te che tutto ti va bene, però cavolo mi sento male per il fatto che a me mi fa sempre male, no? Allora, questa è l'invidia buona, l'invidia nella quale appunto tutte le forme di invidia dovrebbero essere trasformate. E questa è la risposta alla domanda, e poi vedremo se vuoi come si arriva a questo, come si trasforma. Questa è la risposta alla domanda come si combatte veramente l'invidia, trasformandola in un'invidia buona. Perché invece quando l'invidia diventa cattiva, che diventa sadismo, allora cambia anche il significato della parola. Cioè invece quell'invidia, invece di essere solo non posso vedere, non posso guardare, invece di essere negazione avversativa, diventa un in di dentro. Voglio guardarti dentro, ti vengo dentro per possederti, per andare a rovinare tutto dentro di te. Cioè l'invidia è intrusività, invasione dell'altro, sadismo, appunto. Cambia anche il significato del termine, tant'è vero che molti usano invidia in questo termine, in questo senso. Naturalmente finora abbiamo parlato solo dell'invidia, ma resta da parlare dell'invidiato, di quello che, di chi la subisce. Tu il sentimento, quando un altro sta bene, a te ti viene l'invidia. Certo. Ma come si sente quell'altro? Prima di arrivare all'invidiato, ti devo dire che io comunque continuo a fare una grossa fatica a capire il senso di questo dispiacere, cioè a che serve. Sarà che quando ero piccola e magari brontolavo con i miei genitori perché la mia compagnuccia aveva un giochino che io non avevo, mio padre, dalla sua saggezza, diciamo, contadina, mi rispondeva: fatti gli affari tuoi, cioè pensa al tuo, a quello che hai tu, e non star lì a guardare quello che c'hanno gli altri. Cioè fondamentalmente il concetto era questo, e sono cresciuta con queste risposte secche, e poi non mi sono più fatta le domande. Però la domanda che serve ha un'articolazione. Cioè se tu ti fai solo la domanda a che serve in modo oggettivo, te la fai in termini biologici, evolutivi, così eccetera, allora in questo caso non è l'invidia che serve, ma quello che ci sta dietro, cioè il confronto con gli altri a che serve. Confrontarsi con gli altri a che serve? Questa è la giusta domanda. Oppure la domanda è: a che mi serve? No, ma non confrontarsi. A che mi serve, una volta che mi sono confrontata, a provare dispiacere? No. Se una persona è meglio di me. Io no, questo ti volevo dire. Sì, d'accordo, dire. Ma quello però, se io mi chiedo a che mi serve a me, è perché sto pensando a me. Se mi chiedo a che serve agli altri, è perché sto pensando agli altri. Ecco, per esempio, nella vita sociale, le persone che si chiedono a che mi serve l'invidia sono completamente diverse da quelle che chiedono a che serve l'invidia agli altri. Cioè c'è chi pensa all'invidioso, che di essere invidioso, e c'è chi pensa alle conseguenze sociali. Allora, quella domanda lì è una domanda che io formulerei in un altro modo. Cioè, qual è il senso dell'invidia? Sì, sì, va benissimo. Qual è il senso dell'invidia? Mi sono espressa male, certo. Ma è questo il... Allora, il senso dell'invidia può essere o biologico, o personale, o umano. Come tutto quello che ci riguarda. Dal punto di vista biologico, l'invidia è il risultato del confronto con l'altro. L'invidia è semplicemente la sensazione inevitabile che se un altro è più alto di te ti fa sentire più basso. Oh, mi sento chiamato in causa. No. Sì, se un altro è più alto di te ti fa sentire più basso. Tu vai a New York, ti confronti col grattacielo e ti senti più basso. Vai, lo prendi, ma da qui perché devo provare dispiacere? Bene, c'è il grattacielo che è alto, io sono basso. No, dal punto di vista biologico è inevitabile. Chiunque lo prova quel dispiacere. Attenzione, quello lì è oggettivo. La sensazione di dispiacere perché un altro ha qualcosa più grande di te è inevitabile. In tutti. Non sono d'accordo. In tutti. No, come non sei d'accordo? Non sei d'accordo perché non hai approfondito la cosa. Ma è assolutamente inevitabile. Cioè, al confronto, nel contrasto con qualcuno che ha una misura diversa dalla tua, la sensazione della tua misura cambia. Questo è un fatto oggettivo. Quindi il sentimento di dispiacere, quando tu sei di fronte al piacere di un altro e tu non ce l'hai, inevitabilmente ti dispiace. Inevitabilmente ti dispiace. Se tu vedi un altro godere e tu non godi, il tuo non godere aumenta. Se tu non godi, se tu stai godendo anche tu, è un'altra storia. È chiaro che tu devi essere in una condizione diversa da quello dell'altro. Se tu non hai quel senso di dispiacere, se anche tu stai godendo il tuo. Cioè, se uno non se ne frega niente di essere povero, di fronte a Berlusconi non lo invidia. Ma se uno se ne frega di essere povero, di fronte a Berlusconi lo invidia. Adesso hai aggiunto un pezzo. Adesso ho capito. Adesso ho capito cosa vuoi dire. Cioè, se a te non te ne frega niente. Tu dici sto godendo anche, vuol dire sono soddisfatto del mio status, quale esso sia. Esatto, cioè okay. Nel confronto con un altro, tu hai dispiacere quando quell'altro ti fa. Ho capito. Percepire te stesso in un altro modo. Allora, quello è. C'è un altro modo che però suscita negatività, ovviamente. Certo che suscita negatività. Quello è inevitabile. Perché se mi fa sentire in un altro modo, io dico che bello essere in un altro modo e che bello che tu sei in un altro ancora, siamo a posto così. Purché quel modo sia un modo che ti fa godere. Se è un modo che ti fa soffrire, non è bello. Adesso ho capito. È chiaro. Poi c'è il sentimento dell'invidia quando uno, del narciso, il quale non è che ha bisogno di confrontarsi con l'altro per sentirsi uno stronzo. Si sente uno stronzo anche a casa sua, anche senza confrontarsi con nessuno. Cioè, è quello che in termini psicologici si chiama l'autostima o l'autopercezione, la percezione di sé, il giudizio di sé. Uno dentro di sé, non al confronto con un altro, ma dentro di sé ha una sensazione negativa di sé. E per esempio può avere una sensazione negativa di sé perché ha un pensiero, per esempio quando qualcuno gli viene in mente che potrebbe fare una gentilezza a un altro e un'altra parte di sé dice stronzo di un buonista, stronzo di un buonista, non lo fare, cioè, è invidia. Ah, ok. È più personale, è un'altra cosa. Poi c'è il rapporto con un altro, cioè c'è quello che significa nel rapporto, per esempio, nel momento in cui tu scopri che il bene di un altro ti dispiace, no? Tu potresti pensare di essere un pessimo soggetto. E certo, potresti pensare di essere un pessimo soggetto, no? E quindi, dalle varie dimensioni deriva poi come reagisci all'invidia, come reagisci al fatto di sentire dispiacere per il piacere di un altro. La cosa giusta sarebbe quella di dire: io ho il diritto di sentire il dispiacere quando un altro ha o è quello che io non sono o non ho, d'accordo? Ho il diritto, però ho il diritto di soffrire per me, non di riverberarlo su di lui. Cioè, non è che a questo punto mi dispiace che tu. No, a me mi può fare piacere per te e dispiacere per me. Questo è il punto di maturità a cui dovremmo arrivare. E non c'è bisogno di smettere di essere invidiosi, si può continuare ad essere invidiosi senza diventare sadici, senza essere distruttivi. Ci metti un brano, Willy? Che poi andiamo in questo. È già passata l'ora qua, io non so come. Allora inizio a farvi ascoltare questo bellissimo brano di Billie Holiday, G-Baby Ain't I Good to You, la voce della regina Billie Holiday. Poi rientriamo per fare i saluti. Ok, buon ascolto e a fra poco allora. What makes me treat you the way I do? Gee, baby, and I good and true. Gee, baby, ain't I good to you? Bought you a fur coat for Christmas, a diamond ring, a big Cadillac car, and everything. It's love that makes me treat you the way I do. Gee, baby, ain't I good to you? Billie Holiday alla tromba, Roy Eldridge, sax tenore, Lexter Young, insomma il meglio del meglio. 13:57 minuti, siamo arrivati ai saluti ed alcune comunicazioni di servizio, e magari Francesca mi farà ridere anche a me, visto che si sta sganasciando dall'altra parte del vetro. Assolutamente no, no. Anche perché no, ma però una cosa possiamo dirla, scusa, rispetto a questa risata. Sì, dilla, no, no, dilla. Non tutto. Parlavamo dell'invidia del pene. Ah, ho capito, bene. E quindi... Non è che è il tema della prossima. No. Ah, ok, perfetto. No. Meno male. Allora, sì, parlavamo di questo, i nostri fuori onda sono molto coloriti, anzi, potremmo registrare i fuori onda e fare una puntata solo con i fuori onda. Perché ne escono delle buffe. E dunque, le comunicazioni di servizio sono queste. Mercoledì prossimo Francesco ci abbandona e quindi la trasmissione salta, fa ponte anche lei e torna il 30. Il 30 io non sarò in studio, ma ci sarò telefonicamente, quindi comunque faremo la trasmissione e continueremo a parlare di invidia, perché non abbiamo assolutamente esaurito l'argomento. In più vorremmo, avete ben 2 settimane di tempo per pensare ai vostri racconti in merito all'invidia provata, ricevuta, o pensato di ricevere, insomma. Io ricordo i contatti. Posso fare una domanda perché può servire per riflettere? Vai. Allora, è peggio invidiare o essere invidiati? Ecco. Voi ci pensate, potete mandare una mail ad amicidirivivere@gmail.com, oppure il 30 ci ritroverete qui a parlarne e quindi SMS o WhatsApp al 333 180 94 94 oppure 051 34 64 58 per partecipare in diretta a Oltre la Crisi, che vi saluta e vi dà appuntamento, ecco, tra 15 forse il 30 minuti. Sarà un po' più complicato partecipare in diretta visto che sono già in collegamento, ma abbiamo due linee. Però esatto, dai. Abbiamo due linee, io direi che ce la possiamo fare assolutamente. Che radio, che radio. Ci abbiamo ben due linee, va bene. Buon pomeriggio, salutiamo tutti. Ciao. Ringraziamo tutti per l'ascolto e al 30 aprile. Al 30. Ore 13. Ciao a tutti. Aspetta. Ecco, aspetta. Lo sapevo io che c'era un fuori programma. Aspetta. Chi ci scrive? C'è un messaggio, lo leggo. Ma certo, ci mancherebbe. È così puntuale che come si può. Andrea, non potevamo. Certo, grande Andrea. Bene, prete, finalmente la frase chiave è: il confronto, la vera domanda dell'uomo dentro la caverna. Nei Carmina Burana il prete starebbe in taverna a vita. Inviati troppo tardissimo, sorry, dice Andrea. Poi dice: San Tommaso no. I preti che citano San Tommaso e Sant'Agostino sono i peggiori. I Santissimi predicava bene e razzolavano meglio loro. Il prete occidentale pretende che il singolo goda della legge di equilibrio della domanda e dell'offerta, dei sensi e delle cose. Oppure no? Vai. Fuori tempo massimo. Ai ai ai ai ai. E vabbè, la teniamo. No, è fuori tempo massimo. Sì. Quindi la riprenderemo. La teniamo. Quindi la riprendiamo. La riprendiamo. Ribadiamo l'appuntamento. Tanto Andrea c'è, quindi. Non c'è dubbio. La riprendiamo da lì. La riprendiamo. Allora, e il prete potrebbe dire buona Pasqua. Dai, ci stava. Che sorpresa. Adesso metto la sigla così state zitti almeno. Esatto. Ciao a tutti. Ciao. Parliamone. In studio il professor Francesco Campione. Sì, infatti, veramente uno sportivo naturale.